La Psychology for Dummy educa i suoi psicologi a essere molto chiari con il proprio paziente. Una delle terapie per curare è l'omosessualità, ad esempio, che secondo la Psychology for Dummy è una grave malattia dell'esistenza. Si psicobomba il paziente con frasi di questo tipo: Geralt sentiva l'odore del suo sudore, il normale sudore di una giovane donna. Questo è una documentazione fatta dal libro The Witcher. Questo libro è come il Corano per noi Psychology for Dummy. Capitolo studiamo assieme, ci sarà un perché / doppia bis.